io ritengo che la Confindustria abbia raggiunto risultati che lo stesso Marchionne riconosce, cioè questi accordi sono stati firmati anche dalla CGIL dopo 10 anni che la CGIL non firmava più nulla, questo il 28 giugno e poi ribadito il 21 settembre. E con l'articolo 8, quello che non è stato messo in discussione certamente né da Confindustria né dalla CISL, è la possibilità di applicare questi contratti ergo omnes, cioè a tutti i lavoratori una volta che sono stati firmati dalla maggioranza dei sindacati. Quindi questo, diciamo così, mette a posto gli accordi che ha fatto Marchionne. Li ha fatti, valgono per tutti, quindi su questo non ci può essere discussione, secondo me. Altra cosa, invece, il famoso articolo 8, che dà la possibilità a livello aziendale di riformare la legislazione del lavoro, compreso l'articolo 18. Ora, non è che in questo accordo del 21 settembre abbiano potuto negare una legge, cosa che non potevano fare, però hanno detto che prima di affrontare modifiche radicali della legislazione devono un pochettino discutere, confrontarsi fra di loro e assumere le decisioni conseguenti. Ecco, per Marchionne questa posizione è stata troppo prudente, cioè, lui si aspettava che tutti dicessero l'articolo 18 va benissimo e quindi va applicato. Con il particolare peraltro che la CGIL è pronta a fare le barricate e la stessa CISL ha detto che l'articolo 18 non lo vuole cambiare. A questo punto cosa poteva fare la Confindustria? Ritornare a fare la guerra? No, io penso che abbia fatto bene a firmare quell'accordo lì che mette a posto i contratti di Marchionne e che sulle modifiche della legislazione ci sarà bisogno di un confronto. Dopodiché, azienda per azienda, se si mettono d'accordo a cambiare anche l'articolo 18 lo possono fare in base alla legge, nessuno lo vieta.